Eccola, eccola. La collina che vede nonno Lorenzo quando si affaccia fuori dalla finestra. Nonno Lorenzo possiede una botteguccia piccola, piccola, e ogni tanto, quando è stanco, un po' affaticato, s'affaccia e se la guarda. Quella collina laggiù. Che se non ci fosse casa di Peppe si vedrebbe tutta, eh. Però è bellissima, ne vede una strisciolina minuscola, verde. Sempre verde. Primavera, estate, autunno, inverno, sempre, sempre verde. Un broccoletto pare, con tutti quegli alberelli ammucchiati uno vicino all'altro, uno vicino all'altro. Sembra che faccia pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Perché tutti quell'elci, elci, è così che chiamano i lecci da quelle parti. Sono degli alberelli rotondi e tozzi con delle foglioline piccole, sempre verdi. Beh, tutti quegli alberelli ammucchiati sembra che le facciano fare pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Ed è pieno di colline intorno, pop, pop, pop, a chiudere l'orizzonte, pop, pop, pop, pop, ad inglobare quel piccolo paesino e quella piccola botteguccia e il piccolo nonno Lorenzo, pop, pop, pop. Nonno Lorenzo le conosce tutte, una per una, sa che sono tutte uguali, tutte fatte di foglie che ti scricchiolano sotto i piedi in autunno e di rami che ti sbattono addosso quando vai a fare la legna e cinghiali che possono spuntarti dietro al primo albero, tutte uguali, pop, pop, pop, pop, pop, tutte fatte di sali, scendi, sali e scendi e sali e scendi e vaffa la legna, attenta al sasso e frena la mula e fa lo stradello, che se non vai lo stradello te perdi in tola macchia, tutta quella macchia, oh, fitta come la nebbia, pop, pop, pop, e sali e scendi e sali e scendi, oh, che non c'è sta un pezzo di terra dove stia a fa io che cosa, ma manga a pagarlo oro, si intende per seminare un po', fare un po' d'orto, campagna in fondo, niente, in tutto quel sali, scendi e sali e scendi, ce venne su un bosco de castagno, che manco dello stagli a Dio, il castagno poi è un legno tosto, più del travertino di Cordigliano, e cresce su alto, oh alto, che ci puoi fare le scale che ti portano su dal creatore, e le castagne in così, c'è voglia l'andrà a coglie, certo, ma guarda, è più, te certe puncicate proprio in fastidio, che non si sa, quello che conta è il legno. Nonno Lorenzo fa il falegname e mi sembra ancora di sentire l'odore del mucchio di segatura appena fatto, ma non fa il falegname normale, che fa le porte, le finestre, i mobili, no, nonno Lorenzo fa le scale per salire in cima agli alberi a novembre e le botti per metterci dentro il vino, che mo il vino lo stiaffano io pa' quelli ziri de ferro e ve ne bono un co', io non mi fido. Nonno Lorenzo si è messo a bottega dal padre che aveva 12 anni e da allora ha sempre fatto il falegname. Beh sì, poi certo, come tutti in campagna, la mattina alle 5 ci si alza e si va ad innaffiare l'orto, ad arare, quello che c'è da fare, ma ha sempre fatto il falegname. Beh, poi sì, anche il lavoro stagionale dietro la mietitrebbia, sì, giù grano e mangia polvere, e poi, beh sì, anche 100 metri sottoterra a fare il minatore, e sì, anche nella fornace della calce, ma nonno Lorenzo ha sempre fatto il falegname e lavorava, lavorava con suo padre 2, 3, 8, 12, 15 ore al giorno, de giorno finché ci sta, de notte finché serve. Nonno Lorenzo vive in un paesino come tanti ce ne sono nel centro Italia, tutti uguali, che sembrano tutti uguali, con 1, 2, 3 strade al massimo, le case tutte uguali, costruite di una pietra dura che il sole quando ci batte contro torna indietro, tanta la botta che prende, e il campanile che svetta al centro del paese, la piazza, la chiesa, il palazzo padronale del padrone, che oggi, se nasce in un paesino con 2.000-3.000 abitanti, è diventato il palazzo del comune. Ecco, in un paesino del genere viveva nonno Lorenzo, uno di quei paesini dove i forestieri perché c'è sempre qualcuno del paese che se n'è andato a Roma, a Milano a fare fortuna, ma tornano per le feste comandate. È uno di quei paesini dove i banchi della chiesa sono ancora ordinati e nominati secondo le famiglie più importanti e più ricche del paese. Uno di quei paesini dove le feste comandate e la festa del patrono e la festa di Natale sono le feste più importanti dell'anno, perché non c'è nient'altro da fare durante l'anno. Ma la festa più bella di tutti, quella che tutti aspettano, soprattutto i bambini, è il carnevale. È il momento in cui i carri di cartapesta si innalzano fino al cielo, fatti dagli artigiani del paese, e i coriandoli invadono le strade, le piazze, i bambini si divertono per strada, in piazza, i giochi, balli, maschere. Guarda un po', l'hai vista quella laggiù? Guarda un po', quella c'ha la maschera, ma sotto è la figlia della sorella di quello che fanno. Ma mi stai a di quella? Ma guarda un po', mazza quando si è fatta brutta. Però la maschera, insomma, sì, chissà quando l'avrà pagata. Pagata. Con tutti i soldi che c'ha gliel'avranno regalata. Regalata? Signora mia, ma che regalata? A sto buon non si regala niente a nessuno. Tutti hanno un prezzo, signor. Tutti. E così tutti gli abitanti del piccolo paesino se ne stanno tranquilli, in attesa dello spettacolo, seduti davanti al palcoscenico, in attesa della sfilata delle maschere. E ogni anno c'è la migliore maschera, la più bella, la più importante, come ad esempio Don Aedo, vestito con un abito lungo, elegante, una toga nera, decorata esclusivamente da una fila di bottoncini rivestiti di raso nero, colletto bianco su fondo nero, tipico della tradizione cattolica. Un uomo alto, ben piantato, sicuro di sé, intelligente, acculturato. Dimostra questo Donaldo il suo particolare talento seduto dietro a una cortina rossa al riparo da una grata. Ti ricordi per chi devi votare quest'anno? No, perché se non te lo ricordi, ecco, ho qui un foglietto, basta che ti scrivo il nome. Tu in alternativa fai una crocetta sulla croce che già trovi e è a posto così: 7 Ave Marie, 8 Paternoster, 10 Atto di Dolore. Chi più ne ha più ne metta, signore e signori. Perché nel carnevale la maschera più importante è il momento più importante del paese. Come nel 1975, quando il vincitore della maschera più importante fu l'uomo in giacca e cravatta. Nuova epoca, nuova maschera. Un uomo vestito con giacca grigia, su pantalone grigio, il completo non è ancora di moda, cintura nera in pelle abbinata a scarpa nera in pelle, cravatta blu su fondo bianco, loden blu d'ordinanza, sciarpetta rossa d'ordinanza. Qualora fosse necessario corredare il costume di un elemento che manifesti l'appartenenza ad una professione regolarmente retribuita, si può corredare con una borsetta 24 ore in pelle nera abbinata a scarpa e cintura. Un uomo alto, elegante, sicuro di sé, intelligente, che sa ben parlare, dimostra il suo particolare talento in piedi al centro di un palcoscenico davanti a una platea. Popolo ignorante, retrogrado di melezzole! Ah, dai! Bravo! Ah. E tutta quella gente, come quando si stava sotto a Palazzo Venezia a urlare per il duce. E le donne con le brocche in testa e gli uomini che lanciano in aria i loro cappelli e i ragazzini che si infilano tra le gambe delle vecchie. Popolo ignorante, retrogrado de melezzole, bravo! E tutti quegli oh e quegli ah sembrano essere un grido d'entusiasmo per un'epoca nuova. Un'epoca senza guerre né conflitti, finalmente. Un'epoca di sviluppo, rinascita. Un'epoca luminosa di giustizia, cultura per tutti. E tutti quegli oh e quegli ah sembrano essere il grido della stanchezza degli esseri umani, il grido dell'incoscienza, della fame, del sudore e del lavoro. il grido della terra che pesa sulla schiena e sotto i piedi. Sembrano essere il grido dell'ignoranza affamata. E in mezzo a tutta quella folla, nonno Lorenzo stava là a vendere le scale e le botti e pensò bene: oh, ed inteso e vestati che siete un branco di ignoranti, ve volete svegliare. No, nonno Lorenzo stava là a vendere le scale e le botti e pensò bene di starsene zitto, che forse se venne che cosa. Sì, perché per fare una scala ci vogliono 5 o 6 ore. E se tu dovessi impiegare le stesse 5 o 6 ore per venderla, allora è come se le avessi perse, avresti potuto farne un'altra. Per fare una botte, compresa la preparazione del legno, ci vuole un anno. E se tu dovessi impiegare un anno a venderla, per mangiare, allora... Nonno Lorenzo stava là a vendere le scale e le botti e pensò bene di starsene zitto. Che poi voglio dire, no? Ognuno fa il mestiere suo. Io saccio fa le scali, le botti, dicano che reggano bene in co. Quello tocca stare a sentire, non lo sentite come acculturato, istruito? Quello che sta sul palco parla bene, no? Quello sa quello che vuole la gente, tocca stare a sentire, o no? Era il carnevale del 1975. E come ogni carnevale, il momento più bello è la sera del martedì grasso, quando finalmente il palcoscenico si anima dei numeri più belli, del momento più importante della festa. Numero! E fateci un po' vedere due tette. Vogliamo il mago! Il momento più atteso, finalmente. L'apparizione del prestigiatore è arrivato. Il mago, il grandioso prestigiatore, fa il suo ingresso al centro della scena, sfoggiando il suo lungo mantello blu d'ordinanza, e scende in platea a raccogliere saluti, ringraziamenti, consensi, strette di mano, voti. Appoggia una mano sulla spalla dell'uomo qualunque e sfodera il suo trucco migliore. Dimmi che te serve. Perché è così che comincia. Ogni 5 anni il prestigiatore fa il suo ingresso in casa dell'uomo qualunque e sfodera il suo trucco migliore. Dimmi che te serve. E ogni epoca ha il suo prestigiatore, ogni epoca, ogni paesino, tutti diversi, eh? E nel 1975 è proprio un anno importante, perché il prestigiatore di turno può godere di un'epoca meravigliosa. È l'era d'oro degli enti pubblici italiani. Denaro a fiumi arriva direttamente nelle casse del piccolo paesino, pronto a foraggiare numeri mirabolanti del nostro prestigiatore, e quindi nuove strade, nuove piazze, ristrutturazione della sede comunale, ristrutturazione della chiesa, il tutto con decorazioni di pregio, per passare alla storia. Eh sì, perché questa è l'epoca più importante, l'epoca in cui le tessere di partito contano ancora qualcosa. Nel piccolo paesino viene aperta la nuova sede della comunità montana. I primi assunti sono 3 democristiani, 2 socialisti e 1 comunista. Come la Rai, sì. Tra i 3 democristiani assunti c'è un ragazzo giovane, di buona famiglia, alto, sicuro di sé, ben vestito, di quelli che da ragazzino amavano tenere dietro la porta della stanza il poster di Che Guevara e alcuni audaci in tasca all'unità. Ma si sa, la gioventù finisce presto e quindi si acquisisce consapevolezza politica, ma soprattutto viene il bisogno di evitare la leva militare, quindi tesseramento socialista. Ma l'avrà fatto in nome del povero Turati? Buon'anima, la paghi tutta e a prezzo di inflazione, quella che chiamano la maturità. E l'avrà pagata, sì, ma gli è valso un posto di pregio alla comunità montana, ma solo dopo aver fatto una nuova tessera. Da democristiano, un ragazzo giovane, alto, intelligente, che sa ben parlare, ma soprattutto sa scegliere da che parte stare, e infatti si piazza tranquillo e sereno a fianco del grande prestigiatore ad osservare le sue manovre, i suoi numeri migliori, la costruzione delle nuove strade, della ristrutturazione del comune, in attesa del suo momento, in attesa degli anni 90. Ogni numero di magia è composto di tre parti o atti. La prima parte è chiamata la promessa. Il prestigiatore mostra qualcosa di ordinario, un mazzo di carte, un uccellino, un uomo. Mostra questo oggetto. Magari chiede al pubblico di ispezionarlo, di controllare che sia davvero reale, che sia inalterato, normale. Ma ovviamente è probabile che non lo sia. Il secondo atto è chiamato la svolta. Il prestigiatore prende qualcosa di ordinario e lo trasforma in qualcosa di straordinario. Ora, il pubblico sta cercando il segreto, ma non lo troverà, perché gli spettatori non stanno davvero guardando. Non vogliono saperlo. Gli spettatori vogliono essere ingannati. Ma ancora nessuno applaude, perché far sparire qualcosa è semplice, bisogna anche farlo riapparire. Per questo ogni numero di magia ha un terzo atto. La parte più ardua, la parte che chiamiamo il prestigio. 1990, primo atto del numero di magia, la promessa. Finalmente una nuova lista di sinistra, questa volta capeggiata da un nuovo soggetto politico chiamato il comunista, è pronto a sfidare il vecchio prestigiatore, e si combatte quindi una sfida a colpi di voti, firme, schede elettorali, che vede vincitore ovviamente di nuovo, ma il prestigiatore, che chiaramente festeggia una nuova era di governo ininterrotta dal 1975 con il suo nuovo assistente, il ragazzo giovane impiegato alla comunità montana. E mentre stanno festeggiando, 1992, secondo atto del numero di magia, la svolta. E davanti agli spettatori si palesa finalmente uno spettacolo mai visto. Proprio su quel palco vedono cadere il prestigiatore, giù dal palco. L'hanno buttato giù il suo primo assistente e il comunista. L'accusa è quella di essersi intascato delle monetine dei suoi giochi di prestigio. Beh, nuove strade, nuove piazze, ristrutturazione della sede comunale. Qualcosa nel posto sbagliato doveva pur finirci. 1992. È la stessa epoca in cui Bettino Craxi veniva buttato fuori da Roma e dall'Italia a colpi di monetine. Come se con quel tintinnio si riuscisse a mandare all'aria oltre un'intera generazione politica. E poi con uno stuolo di suicidi e di processi si ebbe la pretesa e forse la speranza di mandare all'aria oltre 50 anni di tradizione politica, senza dimenticare il povero De Pretis, buonanima. Prestige, il prestigio. Il terzo atto del numero di magia lascia calare il sipario su un nuovo prestigiatore. Il giovane, il ragazzo comunista, socialista, democristiano impiegato alla comunità montana finalmente prende il centro della scena, pronto ad illudere il suo meraviglioso pubblico con i suoi trucchi migliori, con a fianco il comunista più uno stuolo di piccoli illusionisti, come ad esempio la moglie del medico Sì, fervente donna di politica, interessata ad ottenere per il proprio figliuolo un posto di lavoro. Posto ottenuto? Disinteresse alla politica. E poi... Ah, sì, la moglie dell'imprenditore. Lei è una donna giovane, laureata, intelligente e perfetta per fare politica, ma vorrebbe tanto lavorare nella fabbrica più importante del centro Italia. Scrivania ottenuta? Disinteresse alla politica. Ah, poi c'è il figlio di un certo Alfio. Alfio. Si dice che suo padre abbia fatto lotta politica nel paese tempo fa, ma ora lui vive e lavora fuori. Disinteresse alla politica. Tanta gente fa così, eh? Tanta gente. Tanti nomi. Eh sì, perché i nomi ci vogliono, le firme ci vogliono. Un buon numero di magia non si può mica fare in due, purché se ne stiano tutti dietro le quinte. Perché il prestigiatore è uno. Come lui non c'è nessuno! E che importa poi se si tratta di un prestigiatore socialista, comunista, democristiano? Soprattutto se parliamo di un piccolo paesino dove 600 spettatori su 1000 votano ancora per il sempiterno, indimenticato Movimento Sociale Italiano! Sì, anche adesso che non esiste più. 600 spettatori su 1000 vi sono i presupposti per un plebiscito fascista! Eppure, in un paesino del genere, un giovane ragazzo democristiano conquista il centro della scena e conquista tutta la sua platea con il primo dei trucchi migliori. Un nuovo piano regolatore. Una gigantesca cartina composta da posti assegnati, fabbricazioni regalate, posti concessi. E se qualcuno vuol venire a costruirsi una casa, beh, vengano pure in comune con il suo geometra e il suo avvocato, gli serviranno. E poi controllo delle associazioni del paese, assegnazione di posti di lavoro, spinte per pensionamenti di invalidità, concessioni di edificabilità, viabilità, compravendita di diritti di ogni genere e per tutto il resto c'è Mastercard. Basta. Voglio dire, come se un diritto non fosse un diritto da solo. Senza trucchi, senza azioni di terzi, senza favori, senza inginocchiamenti. Coco, ma non è che è proprio così, voglio dire, no? E se è sempre fatto così, cocca mia, no? Voglio dire, sì, tocca che battezzi il figlio, no? Il bambino, tocca che te raccomandi dal prete, no? E lo stesso, voglio dire, mettiamo che tu c'hai un disabile dentro casa, no? Tocca che te raccomandi dal sindaco, o no? Sì, sì. Un buon numero di magia. Lo spettatore è attento. A questo punto non può fare altro che applaudire e ammirare i numeri del prestigiatore, in attesa di uno sguardo, in attesa del prossimo turno. Anche se c'è qualcuno lì sul palcoscenico che si agita a destra, a sinistra, a destra, a sinistra, a destra, ma chi è che muove le mani così? Ah, ma è il matto, il matto! È uno di quelli che nella politica ci credono veramente, E si è candidato alle ultime elezioni nella lista avversaria, è stato eletto, ma l'hanno lasciato tutto solo, poverino, e lì si agita da morire. Il matto ha proposto due mozioni di sfiducia in consiglio comunale, una per incompatibilità di cariche tra la carica di dirigente di comunità montana e la carica di sindaco, e la seconda per arginare uno scandalo urbanistico in atto, perché con il magico numero del piano regolatore vecchie stalle o vecchi uliveti possono diventare residence di lusso e ville con piscina. Bel numero di magia, bel numero di magia questa volta. Ma si sa, i matti non li ascolta nessuno. Prestige. negli ultimi 20 anni, anzi dal 1992 ad oggi, questo giovane prestigiatore è stato ed è sindaco, consigliere provinciale e, perché no, consigliere regionale, presidente della comunità montana, presidente del servizio che si occupa della gestione ed erogazione dell'acqua pubblica, membro di una certa commissione provinciale per l'assegnazione di fondi pubblici e, perché no, senatore e perché no, geometra, assicuratore. Tutto insieme e tutto da solo. E se no, che mago è? Questa è la storia che volevo raccontare. Una serie di eventi dal 1970 ad oggi che riguardano un piccolo paesino, quello dove vive nonno Lorenzo. Come tanti ce ne sono nel centro Italia, con una, due, tre strade al massimo, una storia che si infila per quelle strade, attraversa le piazze, i tombini e si allarga un po' fino ad arrivare a una costa dell'Italia e poi all'altra, e su fino alle Alpi Aguzze, giù fino al Mediterraneo più profondo. È una storia del piccolo paesino. Il piccolo paesino dove vive ancora nonno Lorenzo, che ormai ha 80 anni, è stanco, si riposa, ha finito di lavorare e se ne sta tranquillo all'ombra del ciliegio seduto e se la guarda passare tutte quelle persone, tutti quegli spettatori attenti con la loro maschera. Una volta gli ho sentito dire: oh, ma lo vedi? È una vergogna, voglio dire, basta che arrivano sul comune e tonfa, si cominciano a invilare soldi dentro le saccocce. Ma te pare una cosa fatta a modo? Cocco, tocca star sindì quelli che stanno io per Roma, dentro al Parlamento. Quella è gente seria, seria, istruita, ma soprattutto quella sa i bisogni del popolo. Tocca star la sindì. Oh no, cocca mia, oh no. E poi senti, io ormai so vecchio, a me mi rimangano pochi anni da campà. Adesso toccate a voi.